Radio 24 Reportage. Lodi, legittima difesa all'Osteria degli Amici, di Raffaella Calandra. Ciao Mario. All'Osteria degli Amici, ora gli amici arrivano da tutte le parti d'Italia. Ora che sentono il bisogno di dire a tutti, io sto con Mario. Mario che davanti ai ladri ha preso il fucile e alla fine ha ucciso nella notte solitaria di Casaletto Lodigiano. La cosa bella è quella, che c'è tanta solidarietà in questo senso. Non so se hai visto la parete delle lettere. Che avete ricevuto da tutte le parti, vero? Da tutte le parti, sì. C'è Trieste, c'è Roma. Verona, Sasso Marconi. Qualcuno, il ristoratore, ci hanno chiamato, ci sono venuti a trovare. Si riconosce la mano incerta di anziani. Nella grafia di lettere e cartoline, ora appese accanto alla macchinetta del caffè e al grembiule con l'hashtag creato dal figlio di Mario Cattaneo, insieme a tutta la famiglia, precisa. La famiglia dell'osteria, cioè fatta di abitué del caffè corretto, vecchi contadini impegnati in un appassionante ramino e ciclisti della domenica. E proprio come in una famiglia, ora stanno tutti incondizionatamente col Mario, perché sarebbe potuto succedere a chiunque, ripeto, snocciolando furti subiti o mancati. Io ammazzo e dico che ho ammazzato. Chiuso. Io lo faccio e dico che sono io, non che ho sbagliato, che sono io. Questa vicenda qui ha lasciato anche negli abitanti un po' un senso di insicurezza. Sicuramente. È successo a me non tanto tempo fa. Sono venuti a rubare a casa sua? Hanno provato? Hanno provato. Io le donne ogni mattina le raccomando, se andate a stendere, chiudete la porta. Sono andati si da, può vivere così? Sono andati da una signora, gli hanno puntato il coltello e l'hanno fatto entrare in casa alle 10:30 del mattino. È la chiave di una porta blindata che divide reparto notte e reparto giorno di casa mia. Ma è possibile? Io vengo via di casa al mattino o qualsiasi cosa, mi chiudo reparto notte per dare un ostacolo in più se entrano in casa. Ma è vita questa? Seduto al bancone dell'osteria, si paragona a San Pietro, il signor Davide, 87 anni, un passato da gioielliere e ora ha un enorme mazzo di chiavi in risposta al senso di insicurezza che in queste campagne tra Lodi, Pavia e Milano tutti sembrano condividere, come le immagini dei videocitofoni inviate su WhatsApp perché mostrano una stessa auto ripresa in almeno due diversi tentativi di furti. Per fortuna non ero in casa, però mi hanno svaligiato la casa e per fortuna che non ero in casa, che almeno se ero in casa magari avrebbe successo la stessa cosa che è successo a Mario. Però io e mia moglie siamo andati da mia figlia, eravamo lì a 800 metri, ci hanno curato, siamo usciti alla sera alle 8, siamo tornati che erano le 11. Quindi hanno seguito i vostri spostamenti, sapevano che voi non c'eravate? Eh beh certo, hanno scassinato la porta e sono entrati, hanno rubato quello che dovevano rubare, l'oro, quello che c'era. E allora c'è chi acquista allarmi, chi si blinda in casa e chi si arma o vede con luce diversa quei fucili fino ad ora imbracciati soltanto per la caccia al cinghiale. A lui va a caccia e io sono un suo alleato. Qua c'è la maglietta "Io sto con Mario". Anche noi stiamo con Mario. A casa mia non ci vieni a rubare. Lei cosa ha il fucile per andare a caccia? Sì, sì, no, ne ho tre io. Sono i dati delle questure a dirlo, come quella di Milano, dove, nonostante furti e rapine siano in calo, la percezione di insicurezza ha fatto invece impennare le richieste di porto d'armi sportivo o per uso venatorio, tanto che solo i rifiuti sono passati da 271 a 606. Un dato in linea col resto del paese, con quello che soprattutto nei piccoli centri viene sentito come il problema principale, la convinzione, cioè, di ritrovare quegli stessi ladri, quando mai vengono arrestati, in circolazione dopo pochissimo tempo, casomai armati e disposti a tutto, come è successo a Budrio. Il discorso della certezza della pena va affrontato. Non si può andare avanti così. No, non si può. Tutto parla del furto di questo qui, eccetera, eccetera, o del fucile. Ma perché non parliamo di quello che gli altri lasciano sulla strada? Uno dei tre prende un colpo. Tu lo abbandoni senza i documenti, ma sei un animale o sei una persona? Cosa vogliamo difendere, una persona con due bambini di sopra? L'avrei fatto anch'io. È una questione che sei abbandonato. Passate di qua alle 3 di notte, da soli. Passate. E poi dite dov'è lo Stato. Non lo dice esplicitamente, ma tanto qui al bancone dell'osteria degli amici di Casaletto Lodigiano tutti sanno che il suo riferimento va ai complici di Petru Ungureanu, il romeno di 28 anni ucciso dallo sparo di Mario Cattaneo. In quattro, o forse in sette, erano quella notte dell'11 marzo in cui è stato l'istinto a farmi prendere il fucile, racconta ora con dolore l'oste, la cui versione sulla dinamica dello sparo, a dire il vero, ha lasciato dei dubbi negli inquirenti che indagano. Sentivo un gran rumore sotto, come dei tavoli che si spostassero, invece dopo ho capito che era la Claire che stavano sradicando. Hanno divelto una porta e poi la Claire, è partito il sensore dell'allarme che ha fatto scattare, sono andati avanti. Poi sentivo da quest'altra parte l'altra porta d'ingresso dell'abitazione, era tutto un gran frastuono tra l'allarme che suonava, i rumori che facevano loro, e quindi è sceso per forza, come si è aperta la porta, sono stato afferrato e trascinato fuori. Un partito, è successo tutto questo. Cattaneo ha voluto mandare un messaggio al sindaco di Budrio dopo l'uccisione del barista Davide Fabbri. Solidarietà come quella da lui ricevuta dal tabaccaio di Piazzale Baracca a Milano, dal gioielliere di Padova e da molti altri, soprattutto commercianti, che si sono ritrovati ad usare le armi contro i rapinatori e poi ad affrontare una vicenda giudiziaria, il più delle volte per eccesso di legittima difesa. Quella norma di cui alcune forze politiche chiedono ora l'abolizione, come era scritto pure su uno striscione di San Siro della curva interista, i cui colori nerazzurri sono più presenti del menù sui tavoli dell'osteria di Mario. C'era scritto sulla legittima difesa e io sto con Mario. È successo un fatto a me, è successo a Bologna. È stata anche lì la colluttazione, è partito il colpo dall'altra parte, dalla parte sbagliata, e c'è rimasto questo signore qua, anche sono rimasto, abbiamo mandato il nostro messaggio di cordoglio. Solo vivendo queste situazioni si riesce a capire le sensazioni di paura che adesso ti vengono, non sei più quello di prima. È angosciante, perché quando ti risuona la Claire la sera ti guardi alle spalle, ti alzi, guardi dalla finestra. Stai allerta. Se sento dei rumori, adesso faccio finta di non sentirli, perché per paura di ritrovarsi in situazioni analoghe. No, non puoi far finta di non sentirli, anzi stai lì ad approfondirli. Abbiamo un sistema di vigilanza notturna, suonano gli allarmi e loro non se ne vanno, entrano lo stesso. Perché è significativo il fatto che lei dice abbiamo tutti gli allarmi e adesso gli allarmi non mettono più in fuga i ladri. Infatti pensi di essere sicuro, tu sono pieno di allarmi dalle finestre, alle porte, se questi mi venivano di sopra, bambini piccoli, le paure erano quelle. Poi gli senti le notizie con gli altri, che cosa succede in giro. C'è il timore che a quel punto ti senti in balia loro. Voglio anche quello che non c'è. Ho pensato a questa possibilità qua, l'istinto che ti fa agire senza sapere quello che fai. Io le armi le ho sempre avute, perché essendo la passione della caccia, quindi erano lì. Adesso devo tenere lì un martello, un bastone, un qualcosa ancora che mi possa difendere. È come la legge della sopravvivenza. Uno in quei momenti lì dice: non ho il tempo di chiamare i carabinieri, perché mentre arrivano. Certo, tu calcoli e l'istinto ti porta ad agire, non puoi stare lì a subire, almeno. Non sto lì a guardare questo che mi usa violenza, reagisco. Qui si ritorna alla normalità all'interno dell'osteria. Lei sa perfettamente che adesso ha davanti a sé una vicenda giudiziaria. Come la vive? Non ci penso, che venga quello che venga, spero che vada a finire bene, perché io in effetti non sono andato a cercarmi in una situazione del genere, mi è capitata. Non la preoccupa il processo, il possibile processo? Sì, alla mia età mi devono fare, possono condannarmi, ma che facciano quello che vogliono. Non mi interessa più di tanto. E io ricevo incoraggiamenti da tutti, all'infuori di quelli che dovrebbero darti. Da rappresentanti dello Stato. Esatto. Io al loro posto l'avevo già risolta il caso. C'è un colpevole, questo è venuto a rubare, è venuto a casa mia, questo si è difeso, ha protetto la sua famiglia, la sua casa. È inutile torturare e far soffrire della gente per cosa? Perché alla fine. Quindi facciano quello che vogliono, a me no, non dico nient'altro. e la legge già tutela chi si difende in casa propria, ma stabilisce pure che la risposta deve essere necessaria e proporzionata e non si può sparare al ladro in fuga. Ma qui, all'osteria dei Amis, tutto questo sembra restare fuori dalla Claire, come le parole del fratello di Petru, la vittima che chiede giustizia ma promette perdono. A lui, ma anche a chi indaga, una sola frase ora manda a dire: Mario, l'oste, ho la coscienza a posto. E gli amici dell'osteria tornano qui ogni giorno per farglielo sentire. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.